macchina del capo. Quale capo sarà quella di Sebastiano Barisoni? Nicoletta, se ci sente stamattina, vabbè, lo salutiamo. Allora, siete pronti a cambiare le scarpine della vostra vettura? Dallo stivale al sandalo, insomma. Sì, quello, all'infradito. Quello alla schiava alla di cui schiava. Parlavamo prima, esatto. Quali sono le due date principali, quelle da tenere proprio inchiodate bene in testa del cambio stagione per i pneumatici, Guido? Ma lo sanno anche i bambini. Voi non salite più sui marciapiedi, invece a me un marciapiede non mi ha dato la precedenza, mi ha distrutto una gomma. Manna, non ci sono più i marciapiedi di una volta. Di una volta, ecco, veramente. Galantuomini. Ho un buco nella gomma e noi la aggiusteremo con il chewing gum. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. La mia testa si girava e il motore accompagnava. Per quel nastro fu perciò che il mio tic si complicò. Non si sta poi tanto male con un tic. Oggi diamo spazio ad una serie di segnali che appaiono all'improvviso e poi scompaiono. Possono durare anche solo pochi istanti, ma questo è sufficiente a farci scattare l'allerta, specie se tornano con una certa frequenza: tremori, crampi, tic, distonie, movimenti rapidi, istantanei o più insistenti, come la classica frenesia che alcune persone avvertono durante la notte che li spinge a muovere le gambe, o ancora il digrignare i denti. Il nostro numero verde è già a disposizione: 800 24 0024. Un po' come i miei numeri, no, Nicoletta? Quelli che cito tante volte, quelli che raccontano l'andamento dei mercati, del mondo degli investimenti, dei denari, insomma mostrano dei movimenti un po' strani. Ce n'è uno in questi giorni: c'è un tasso interbancario, l'Euribor, che è andato sotto zero, quindi una cosa strana che oggi cercheremo di spiegare nel nostro spazio preferito per fare questo lavoro, che è quello della nostra scuola di risparmio. Oggi è giovedì, torna alle 11.45 Investire Informati e come sempre con un esperto in studio potremo rispondere a tutte le vostre domande sulla gestione dei vostri risparmi e dei vostri investimenti. C'è anche la Grecia in questi giorni che è tornata a far ballare un po' i mercati. Allora 800 24 0024 per iniziare a prenotare tutte le vostre domande. Certo che con quel tic Patti non si può davvero guardare, speriamo che il dottore trovi una soluzione. Ma non è mica così semplice, sai, per esempio mio figlio il tic di tirare su col naso, non riesco a farglielo passare. Hai mai provato a dargli un fazzoletto? Ragazzi, sapete che cosa ha detto il dottore? Che questo tic è provocato dalla presenza ingombrante della mamma di Silvano. Tu l'hai detto che per farmelo passare ci sono solo due soluzioni: o accetto la situazione o mi sfogo contro la causa del problema. La palpebra che balla, il naso che si arriccia, il bisogno di schiarirsi la voce, un leggero tremore alla mano o ancora la frenesia che sembra impadronirsi delle nostre gambe e che disturba il nostro riposo. Ma che cosa lega tutte queste situazioni all'apparenza così lontane, così diverse? Forse il fatto che succedono, che magari non il fatto che si presentano senza che noi ne abbiamo il controllo, o forse che appaiono all'improvviso e nel giro di pochi secondi scompaiono, quasi senza lasciare traccia. Ne parliamo oggi con il professor Alberto Albanese, ordinario di neurologia all'Università Cattolica, Istituto Neurologico Besta. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Sono contenta perché così conosce anche Deborah, perché dall'inizio di Cuore Denari il professor Albanese non era ancora venuto. Me l'avevi tenuto nascosto? Sì. Ebbene sì, ma adesso. Buongiorno, zata. Benvenuto. È un mio piacere, grazie. Grazie. Professore, i movimenti involontari sono un capitolo importante della neurologia, ma con questo nome mi sembra che vengono descritte situazioni e sintomi tra loro molto diversi. Allora, vogliamo proprio partire da una definizione corretta, chiamarli un po' per nome? Sì, i movimenti involontari sono movimenti che non dovrebbero esserci e in realtà ci sono. E ci sono 8 tipi di movimenti involontari che i neurologi che sono esperti di queste cose, che poi non sono tantissimi perché è un campo un po' particolare, classificano in maniera, se vuole, molto precisa, molto matematica. Ed è anche interessante l'expertise necessaria a riconoscere le differenze tra un tipo di movimento e l'altro. alcuni hanno termini comuni al linguaggio comune, tipo i tic, che è la stessa parola utilizzata sia dal grande pubblico che dai neurologi, altri sono un po' più ostici come le distonie, meno utilizzati, un altro termine comune è il tremore, ma è chiaro che noi lo utilizziamo con un significato molto preciso che non è sempre evidente a chi usa lo stesso termine nel linguaggio comune. Professor Albanese, lei ha parlato di distonie. Il termine distonia viene usato per un gruppo di malattie neurologiche caratterizzate proprio dalla presenza di spasmi muscolari involontari e protratti, no? Sì, che no. Determinano a volte delle posizioni anche particolari del corpo, anomale, possono interessare più parti una parte del corpo specifico oppure magari parti più estese. Questo è quello che ho cercato di raccontare io e quello che ho capito riguardo le distonie, che sono veramente un capitolo importante che crea naturalmente un disturbo che crea molti disagi in chi ne soffre. Ma professor Albanese, ci aiuti lei? Sì, sono una malattia classificata come rara, ma che in realtà è molto al di sopra della soglia riconosciuta delle malattie rare, perché spesso non viene diagnosticata. Diciamo che ha colpito la fantasia di poeti, artisti, scrittori. Dante Alighieri aveva messo gli indovini nell'ottavo cerchio della quarta bolgia, Egon Schiele, un pittore austriaco, aveva descritto il proprio torcicollo, la propria torsione del collo, e sono soprattutto curabili, sono un disturbo, diciamo, software, potremmo dire così, del sistema nervoso, del cervello, il software che gira a delle anomalie, come dei bachi del computer, che quindi fanno generare questi movimenti involontari, che sono anche poco evidenti a volte, altre volte molto evidenti, e quando sono poco evidenti spesso sono trascurati e non curati. Professore, mi aiuta a fare una distinzione tra distonia e tic, perché sempre di movimenti involontari si tratta, ma qual è la differenza? Il tic è un movimento involontario, anzi classificato come semivolontario, però poi andiamo sul difficile, che hanno la caratteristica di essere generati da un circuito diverso dei gangli della base. La distonia è una mancanza di selezione dei movimenti, è come se il cervello non ripulisse, diciamo, il software prima di mandarlo in attuazione, quindi il movimento generato venisse arricchito da movimenti che non dovrebbero esserci. Diciamo che entrambi possono colpire gli occhi, possono colpire il collo, possono avere gesti anche del tronco, e entrambi possono essere forme più o meno gravi, anche gravissime in alcuni casi, e quindi la fenomenologia è molto variabile. È importante riconoscerli, perché per esempio le distonie sono state per la prima volta trattate efficacemente con la tossina botulinica, prima che di tossina botulinica si parlasse presso il grande pubblico, anche per ragioni cosmetiche eccetera. Noi abbiamo sempre trattato queste forme. I tic solo in alcuni casi si trattano con la tossina botulinica e si trattano invece più comunemente con dei farmaci, quindi è importante che il neurologo esperto del settore riconosca il tipo di movimento involontario in maniera da indirizzare il paziente alle cure. L'altro punto è che sono movimenti che per lo più si curano anche bene. Ecco, questo è il messaggio che vogliamo mandare. Dare, certo. 800 24 00 24 per trovare e dare una spiegazione a quei movimenti che a volte involontariamente o semivolontariamente facciamo, quindi per sapere perché avete un tic oppure le vostre gambe di notte sembrano non avere pace, o il motivo per cui a volte proprio mentre dormite avete la sensazione di cadere dal letto, di inciampare, oppure se a preoccuparvi è un leggero tremore al braccio, alla gamba o ancora al tic, una distonia o una smorfia a livello della bocca, chiamateci. Il professor Albanese rimane con noi sino alle 11.45. Intanto abbiamo Vito da Trieste, insomma abbiamo percepito dalla sua telefonata come da molti messaggi che naturalmente sono situazioni che agitano particolarmente i genitori quando questi episodi si verificano nei bambini, no? Vito, benvenuto. Ah, buongiorno e buona giornata a tutti voi. Altrettanto. Anche a lei. Dalla bella Trieste. Grazie signora, però io non sono triestino, vivo qui da 50 anni, però sono nato giù in meridione, però questo non cambia nulla praticamente. Guardi, io ho un bambino di 13 anni, che adesso fa la terza media, che circa un 4-5 anni fa mi sono accorto che girava gli occhi all'insù, all'ingiù. Poi io sono andato dal pediatra, e ho detto dai, non è niente, però sarà stanco così. Poi l'anno dopo ho visto che il labbro lo sorgeva un pochino e così. Poi un altro anno ho visto che avevo leggermente un tic sulla testa e diceva papà, mi fa male il collo, e l'ho portato qui a Trieste in psichiatria al Burro Garofano, no? Sì. E praticamente loro hanno detto che è un bambino intelligente, che non ha problemi, certo. E hanno detto di dargli e di dargli delle gocce di N. Io gli davo 10 gocce per 10 giorni, poi altri 10 che ne davo 8, poi 7 eliminazione. Sì. Praticamente lui incomincia la scuola, poi dopo 3 mesi incomincia ad avere questi problemi e io gli faccio questa cura. Poi in primavera, che è stanco e ha sempre questi problemi, poi io gli do un po' di magnesio, integratori. Va bene, però Vito, lei lo associa quindi a un disturbo di stanchezza e anche un po' di stress con la ripresa della scuola. Vorrei chiedere al professor Albanese il suo parere, perché i tic sono movimenti semi volontari, perché in realtà il ticcoso in alcuni casi si può controllare, vero professore? Sì, per con un bambino magari questo diventa, bisogna chiederglielo in maniera espressa, magari un adulto lo dice anche spontaneamente, ma da come lo racconta sembrerebbe forse dei tic infantili o azzardo così una sorta di diagnosi telefonica, ma però questo esempio è molto tipico, perché poi questi bambini finiscono con ricevere comunque dei calmanti di qualche tipo e ovviamente i tic o qualunque altro movimento involontario con dei calmanti si attenuano, come si aggravano con l'emozione. Spesso si commette l'errore che l'emozione o l'ansia siano la causa, in realtà sono dei fattori aggravanti non specifici, quindi vanno visti da uno specialista in disturbi del movimento che non è uno psichiatra, è un neurologo, e che può darle il consiglio migliore, perché alcuni di questi movimenti poi con lo sviluppo scompaiono spontaneamente e allora non è sempre necessario dare una cura. A volte bisogna chiedere ai familiari o spiegare agli insegnanti di aver pazienza e che il disturbo passerà, ecco. 800 24 00 24, ma scriveteci anche al 349 238 6666. Professore Albanese, rompo il ghiaccio per parlare di tremore, è un segnale che ci fa paura perché rimanda subito al Parkinson. Allora ci aiuti a capire quali sono le variabili che fanno la differenza. Tutti sarà capitato magari, o molti, ad esempio bevendo il caffè, appoggi la tazzina sul piattino e ti accorgi che balla leggermente, allora inizi subito a pensare il tremore e l'associazione viene immediata. Professor Albanese. Sì, allora, premesso che nessuno di noi è veramente fermo, tutti tremiamo, però tremiamo con un'ampiezza così ridotta da apparire fermi, l'occhio non percepisce. In alcuni casi il tremore fisiologico, normalmente invisibile, diventa un po' più ampio ed ecco lì che si vede quel tremore che può vedersi qui e là in varie persone. Però questo è ancora ritenuto un'accentuazione del tremore fisiologico. Accanto a questo ci sono altri tipi di tremori, di cui solo uno è il tremore del Parkinson, che ha delle caratteristiche diverse, può essere più a riposo o può essere con delle posture particolari. E che è quello che fa paura, in genere la parola Parkinson ha un forte stigma e quindi spaventa le persone. Io sono sempre molto contento quando qualcuno viene da me con la paura del Parkinson e posso dire no, guardi, lei ha un tremore assolutamente diverso, perché è chiaro che questo tipo di diagnosi fa paura. Poi in realtà alcuni tremori non sono guaribili, quindi poi ad alcune persone che hanno dei tremori magari benigni, non progressivi, non legati alla malattia di Parkinson, bisogna dire, chiedere anche di sopportarli. Ecco, ci sono tanti tipi di tremore che si curano con terapie graduate, dalle più semplici alle più complesse, anche chirurgiche, e quindi poi la scelta di cosa fare sul piano terapeutico è veramente parte di un dialogo tra il medico e il paziente. Professor Albanese, mi sembra di aver colto che la differenza per il tremore in pratica è il momento in cui si manifesta il tremore. Se a riposo ci preoccupa, se viene ad esempio dopo uno sforzo, dopo aver sollevato un peso, stiamo tranquilli. Non vorrei farla troppo semplice, ma è corretto come messaggio? massaggio? Dove per riposo si intende riposo, perché sì, il fatto che una persona abbia le braccia giù e sia in piedi potrebbe avere le braccia un po' contratte e quindi non siano completamente a riposo, quindi riposo in senso, come dire, vero del termine. E quindi sì, e poi la frequenza cambia in base ai tremori cerebellari, per esempio hanno frequenza più bassa, i tremori parkinsoniani leggermente più alta, il tremore fisiologico più alta, poi ci sono tremori molto particolari come il tremore ortostatico che ha frequenza molto elevata, anche sui 16 Hz, spesso non visibile. Una delle cose che le persone non sanno è che il tremore noi non lo guardiamo ma lo palpiamo, noi dobbiamo sentirlo con le mani, bisogna mettere le mani sulla parte del corpo che trema e sentire questo tremore, spesso si chiudono gli occhi, si sente il tremore con maggiore percezione e si capisce la frequenza, si capiscono alcuni aspetti, questo prima di poi di fare delle misurazioni che richiedono delle apparecchiature, ma anche durante la visita si può proprio palpare il tremore, che è un fatto molto importante sul piano diagnostico. E in effetti nei movimenti involontari ce ne sono alcuni che saltano all'occhio, come si dice, perché il tic lo vede anche la persona che hai di fronte, mentre alcuni altri movimenti involontari, come ad esempio il tremore o la palpebra, quello della palpebra. La palpebra che balla, grande successo, perché si sente, ecco, vedi, anche dalla regia noi avvertiamo questa rima palpebrale che si muove, anche un ascoltatore ce lo scrive, dice che è come se avesse un omino che scalcia per liberarsi, però poi non sempre la palpebra balla. Professor Albanese. Quello della palpebra che si muove spesso è veramente un'espressione di stanchezza ed è veramente qualcosa di non preoccupante ed è molto comune come fenomeno di una palpebra che si muova molto velocemente e che dà fastidio perché ovviamente è situata in prossimità degli occhi, ma in genere è un qualcosa di assolutamente passeggero e tranquillizzante. Insomma, la lasciamo ballare. Sì, molto più neurologico, libera. Ecco, sono quei casi di persone che ammiccano rapidamente, che strizzano gli occhi, che hanno difficoltà, per esempio, quando c'è la luce forte e quindi a quel punto hanno dei movimenti degli occhi, delle palpebre, solo quando la luce è intensa o quando cercano di leggere magari con una luce, diciamo, da lettura e poi magari al buio stanno meglio. Ecco, lì entriamo più nel settore, come dire, software, cioè di alterazioni del movimento involontarie, magari lievi, che si manifestano solo in taluni contesti e che sono poi pienamente nel nostro campo d'azione. Allora, adesso continuiamo a sentire i nostri amici da casa all'800 24 00 24. È arrivato il momento di Roberto da Bergamo. Roberto, benvenuto. Sono in linea? È in linea, eccola qua. E a cuore denari, benvenuto. Buongiorno, complimenti alla trasmissione. Grazie. Niente, praticamente la moglie mi diceva tante volte di notte, mi sento che tremo praticamente, ma io non me ne accorgo mai, non mi sono mai accorto, ma non sempre, ogni tanto lo faccio. E poi questi crampi alla schiena, davanti, sembra che si cavalcano le coste, diciamo, una roba così, invece proprio mi manca proprio il fiato. Allora Roberto, andiamo, scende la notte, il professor Albanese rimane con noi, subito dopo i mercati ci occupiamo anche del caso di Roberto, sono tanti di voi che ci raccontano di questa frenesia che avvertono proprio alla notte o questa sensazione di inciampo, scosse che avvertiamo, chi nella schiena, chi nel braccio, con o senza tremore, a tra poco, dopo i mercati, perché andiamo a vedere che movimenti fanno i mercati. Guarda, volontari, semivolontari, involontari, non lo com'è? So se sono volontari e involontari, ma sono tutti in rosso stamattina. Andiamo. Cuore e denari. Avrete già immaginato che tra poco, per il nostro spazio di Investire Informati, una piccola puntatina in Grecia la dovremo fare anche oggi, perché torna a dominare l'attenzione generale questa precaria, almeno in queste giornate, situazioni di questo piccolo Stato europeo. Parleremo di Grecia ma anche di tassi di interesse, c'è l'altro grande argomento dei tassi interbancari che sono finiti sotto zero, c'è la diversificazione dei nostri investimenti, tanti argomenti da discutere, ne parleremo di tutto tutto questo grazie anche alle vostre domande all'800 24 00 24. Con Investire Informati a partire dalle 11.45 torna con noi Simone Binismaghi, vice direttore generale di Arca SGR. Sono molto inticchettato e sono molto inticchettato. Non voglio eppur mi muovo. Torniamo ad occuparci dei movimenti involontari. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Alberto Albanese, ordinario di neurologia all'Università Cattolica, Istituto Neurologico Besta. Professore, i movimenti, insomma, che volontariamente, involontariamente o semivolontariamente facciamo, abbiamo capito che possono interessare zone piccole del corpo ed essere quasi impercettibili o avere un impatto più importante, ed interessare ad esempio anche il collo, metà del viso, ad assomigliare ad una sorta di torsione. Abbiamo parlato infatti anche di distonie, ma adesso vogliamo occuparci del caso suggerito del nostro ascoltatore che di notte lamenta questa frenesia alle gambe, queste scosse che sente, avverte lungo la schiena. Anche questi sono da inserire nel grande capitolo dei movimenti involontari? E ci sono molti movimenti involontari che riguardano la notte, diciamo la dal prima a durante dell'addormentamento a durante il sonno. Per esempio, ci sono persone che hanno qualche scossa, ecco il più semplice, qualche scossa nel momento in cui prendono sonno, in cui si addormentano, è normalissimo, si chiamano mioclonie dell'addormentamento e questo è abbastanza diffuso. Altre persone hanno il bisogno di muovere le gambe come conseguenza di percezioni strane, di sensazioni magari di formicoli o di bruciori o di senso di trazione e hanno difficoltà a quel punto a prendere sonno perché si muovono attivamente, quindi non sono dei movimenti involontari, ma perché hanno delle sensazioni anomale che inducono questi movimenti. Questo è per esempio un esempio tipico, sono le gambe senza riposo, delle persone che fanno fatica quindi a quel punto a prendere sonno perché non riescono a rilassarsi in modo completo. E bisogna proprio alzarsi, camminare un po' e poi il disturbo passa, professore? Sono un disturbo anche comune, abbastanza comune e molto sottodiagnosticato e anche facilmente curabile con delle terapie anche di piccolo impegno, diciamo di poco impegno, però naturalmente va fatta diagnosi. Senta, ma professore, è vero che questa frenesia notturna può in alcune particolari condizioni creare il sospetto di un pre-Parkinson? Sì, no, allora altre persone ancora hanno dei movimenti durante i sogni. Durante i sogni noi siamo normalmente paralizzati e quindi sogniamo liberamente senza che ciò dia adito a movimento, ma in alcune persone questa normale paralisi del sogno, diciamo del periodo della fase REM del sonno, non avviene. Allora questo, come dire, si chiama disturbo del sonno REM, sono persone che quindi agiscono i loro sogni e si muovono e quindi vengono percepiti dal partner nel letto come persone che si agitano, magari danno pugni, fanno male anche o spingono la persona che è accanto a loro. E questo in particolare è un sintomo rilevante, importante, perché frequentemente può essere un campanello premonitore non solo del Parkinson ma di molte malattie neurologiche degenerative. E anche qui però va fatta diagnosi, nel senso ma che noi... come si fa? Bisogna recarsi allora, se le notti sono particolarmente agitate, allora io vado da un neurologo a raccontargli la mia storia e lui ha delle indagini per capire se il problema è fisiologico e patologico? Allora, il neurologo esperto pone delle domande, come dire, chiave, per cui in fase di anamnesi, di dialogo col paziente, si orienta. Una volta orientato, quando si orienta per un disturbo del sonno, quindi qual è il disturbo del sonno REM, comunque dei periodi del sonno, richiede degli esami relativi al sonno, quindi può fare una polisonnografia o può fare delle ricerche di quel tipo. E quindi poi ci sono anche dei colleghi, dei neurologi che sono anche super specializzati sul sonno in particolare. Però la diagnosi può essere più semplicemente fatta anche sulla base dell'esperienza. Però quando il paziente risponde in maniera univoca e il compagno di letto risponde in maniera univoca a delle domande, ci sono anche dei questionari che possono essere forniti e che sono molto utili, possono essere anche compilati come dire, nella fase di attesa della visita e quindi facilitano poi anche la gestione della visita. In alcuni casi il quadro è chiaro, anche a livello anamnestico, in altri lo è meno e allora si approfondisce con degli esami mirati. Andiamo avanti con le nostre telefonate. Direi di sì, aspettava da un pochino Alessandro da Roma, per cui subito la precedenza al nostro ascoltatore. Alessandro, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a lei. Io ho approfittato della presenza del professore perché dal 2012 soffro di distonia focale alla mano sinistra. Sostanzialmente io sono un musicista e da un momento all'altro ho cominciato ad accorgermi che non riuscivo più a fare degli esercizi, anche difficili, che fino a poco tempo prima riuscivo a fare. Ho cercato un po' su internet, perché solitamente i musicisti soffrono di tunnel carpale, cose del genere. Esatto. Però io non sentivo nessun tipo di dolore. Sono venuto a conoscenza sostanzialmente della distonia focale. E in pratica, per chi non la conoscesse, è dei movimenti inconsulti. Per quanto mi riguarda, si piegano l'anulare e il mignolo verso il palmo della mano, quindi non riesco più a suonare. Nelle visite che ho fatto al Gemelli qui a Roma mi hanno detto che era meglio che smettessi di suonare, perché non c'è una vera e propria cura, se non il botulino, come il professore prima ha ricordato. Però non è risolutiva effettivamente. Ci sono un paio di centri in Spagna, ma sono metodi piuttosto sperimentali. E quindi praticamente io dal 2012 ho smesso di suonare. Volevo chiedere al professore se ci sono delle novità. Grazie, esatto. Alessandro, per questa telefonata. Avevamo naturalmente accennato al capitolo delle distonie, ma professor Albanese, in questo caso, nel caso di Alessandro, ti cambia proprio la vita, perché lui delle mani tutti abbiamo bisogno, ma per un musicista sono strumenti di lavoro. Che strumento suona, Alessandro? È a fiato? Non era il mio lavoro, lo facevo come secondo lavoro, ma era la chitarra. La chitarra. Okay. Perfetto. Dunque, la distonia, come dicevo, è un disturbo software, è affascinante per chi lo studia per questo motivo, perché è come se noi fossimo degli esperti di software, dei programmatori. E naturalmente per chi fa il performer, tanto più se lo fa in maniera, come dire, perfezionista, come fanno i musicisti professionisti, più si cerca di utilizzare quel software per fare quel tipo di movimenti, più il disturbo si accentua. Quindi in effetti curare i musicisti, in particolare se professionisti, è un problema, è difficile, perché con la tossina botulinica noi possiamo decontrarre i muscoli, ma quando lo facciamo loro si lamentano a volte di non avere la perfezione del movimento richiesta per la performance musicale. Ci sono dei centri che all'estero cercano di giocare tra virgolette con il software attraverso delle manovre di retraining, quindi di reinsegnare, come dire, all'arto a muoversi, facendo una specie di gioco con il cervello attraverso delle manovre di tipo fisico che dovrebbero, ma non è dimostrato, non è necessariamente efficace, dovrebbero, come dire, far girare meglio questo software che non gira bene. Però la vera verità è che in alcuni casi la soluzione è quella di cambiare strumento, oppure è quella estrema di cambiare attività. Certo, perché al momento non ci sono soluzioni se non quella della tossina botulinica, che però per chi poi deve fare un lavoro di fino in qualche modo non è efficace, perché ti toglie quella sensibilità, ecco, il termine non è preciso, ma irrigidisce un po' l'arto, vero professore? Quindi altri movimenti magari con la stessa mano li fanno perfettamente. Quindi diventa specifico quando gira proprio quel software particolare che fa fare magari quelle sequenze e quei movimenti lì, quindi diventa anche difficile proporre delle terapie invasive, per esempio neurochirurgiche, in una persona che ha un problema solo su certi tipi di movimenti molto impegnativi sul piano della programmazione cerebrale. E quindi a volte si risolve, ma altre volte effettivamente è difficile trovare la soluzione per quel tipo di esecuzione motoria. Professore, quindi però abbiamo anche capito dall'intervento del nostro ascoltatore che le distonie possono comparire nell'arco della vita. Sì, assolutamente sì. C'è un'ereditarietà? Sì, ci sono dei geni, ci sono geni forti e geni deboli, quindi ci può essere una predisposizione genetica o un determinismo genetico e poi si studiano anche le famiglie, si studiano anche i geni. Io se riusciamo sentiamo velocemente Patrizia da Roma, a cui chiedo di fare una domanda rapida e poi il professor Albanese dà una risposta, così poi passiamo al secondo tema di Cuore Denari. Grazie Patrizia, buongiorno. Buongiorno, io volevo sottoporre questa domanda. Mio figlio adesso ha 18 anni, fin da bambino manifestava una sorta di iperattività e quello che io ho notato è che ogni tanto irrigidiva appunto gli arti, quando era piccolo li irrigidiva molto, era molto più evidente. Oggi magari me ne accorgo meno, lo fa meno, però è sempre sotto un momento emozionale, certo, legato a un discorso emozionale. Quindi io volevo capire, potrebbe essere un discorso neurologico o cosa? Perché magari ecco, io vedo che quando è emozionato il suo di giri, magari lui da piccolo saltellava e adesso balla, però sì, insomma, tendenzialmente continua a manifestare. Non so se il professor Albanese ha tutte le indicazioni, naturalmente per dare il suo parere che non è una diagnosi, e se il tempo ce lo permette, professor Albanese, magari un'indicazione a Patrizia. Brevemente, tutti i disturbi motori sono disturbi neurologici. Spesso c'è questo errore legato all'emozione o alla tensione che fa pensare a disturbi tipo psicologico psichiatrico. È veramente il nostro mestiere, è il neurologo che si occupa dei disturbi del movimento. Non bisogna farsi fuorviare dal fatto che si accentuino o si verifichino soltanto i momenti di tensione emotiva. Mi sembra che questo sia un messaggio perfetto che arriva, quindi di fronte a un disturbo del movimento è vero che lo stress, il timore lo acuisce, però lo specialista di riferimento è il neurologo. Questo ci permette di essere rassicurati, perché molte volte, come ci ha detto il professor Albanese, non si tratta di un problema, di una patologia, ma nel caso di arrivare presto ad una diagnosi, che come sempre fa la differenza. Professor Albanese, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Buona giornata. È stato un piacere conoscerla finalmente. Anche mia, grazie. Va bene, così la prossima volta vi vedete voi. Ottimo. E io adesso andiamo ai nostri specialisti di altre discipline, sempre molto molto delicate comunque, perché riguardano i nostri soldi, il nostro denaro. Allora c'è il traffico e poi naturalmente abbiamo l'appuntamento con Investire Informati. A tra poco. Cuore e denari. Come preannunciato poco fa, eccoci ritrovati anche oggi con il nostro appuntamento fisso del giovedì, con il quale proviamo a decifrare le notizie finanziarie e verifichiamo fino a che punto ci riguardino sempre molto, quanto impattano nella nostra quotidianità e soprattutto nelle nostre scelte di risparmio. Investire informati. 800 24 00 24, cominciate a mettere subito mano alla cornetta per raccontarci quali sono i temi di mercato che vi stuzzicano in questo momento, che vi fanno porre delle domande, a che punto siete della manutenzione delle vostre strategie di investimento. Oggi su questi temi ci confrontiamo con Simone Binismaghi, vice direttore generale di Arca SGR, oltre che responsabile sviluppo e marketing di questa società. Ben ritrovato, buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. Ci ha portato peraltro tanti regali, fra cui ve lo segnalo già perché è interessante, perché oggi abbiamo una puntata ricca anche di riconoscimenti per i nostri ascoltatori, e per chi sarà particolarmente bravo oggi potremo regalare anche Finanza comportamentale in azione, che è un libricino che Arca ha distribuito proprio al recente Salone del Risparmio, dove eravamo presenti anche noi, e quindi lo ringraziamo naturalmente per averlo portato, per aver portato qualche volumetto. Oltre a questo, naturalmente ve lo dovete meritare come sempre, per cui fate attenzione a questa... Fateci tanti. Tu fai attenzione col microfono. È vero. Fateci ecco, tanti complimenti. Prima cosa. Che è questo. Che... Quelli non ci mancano mai. Poi fate attenzione a questa prima parte della trasmissione, perché faremo già qualche ragionamento che ci sarà utile per la seconda parte, parte nella quale faremo poi il nostro domandone. Allora, oltre a questo libricino, oggi avete anche l'opportunità di portarvi a casa di nuovo altri biglietti per il concerto dell'ultimo tour del nostro Enrico Ruggeri. Sapete che è in giro con il suo